Cari cristiani, vorrei suggerire al vostro cuore e al vostro pensiero una riflessione che sarà un po' originale. Spero non vi faccia restar male su che cosa vuol dire che Gesù è risorto. Perché lo diciamo tutti, no? Buona Pasqua, Gesù è risorto. Io ho ricevuto un sacco di messaggi sul cellulare o con una colomba nel becco un ulivo, oppure Gesù è risorto. E ho gradito questo. Però io mi chiedo, ma tutti noi cristiani siamo consapevoli che cosa vuol dire che Gesù è risorto? E allora mi è nato in cuore questa riflessione che vi condivido. Non voglio partire dalla tomba vuota, Gesù è risorto, gli auguri che ci facciamo. Voglio ripartire dalle nostre case, quando c'è un funerale. Credo che tutti noi, soprattutto chi ha un po' di anni, avrà vissuto qualche momento così, no? Vedi una persona di varia età, che si spegne. Anche il sacerdote ha una famiglia, non solo ha partecipato a centinaia di funerali, ma li ha fatti anche a casa sua. Io ricordo che il momento, almeno per me, il momento più duro è quando gli addetti alle pompe funebri mettono il coperchio di metallo e lo sigillano e poi mettono il coperchio della cassa da morto. In quel momento tu senti dentro nel cuore che quell'uomo lì, quella donna lì, che magari sono tuo padre, tua madre o tuo fratello, non li vedrai più. E mi ha sempre colpito, amici, mai più. È lì, amici, che scatta il pensiero che Gesù è risorto. È lì che uno dice, per fortuna che io sono credente in Gesù Cristo. Per fortuna che so cosa vuol dire che Cristo è risorto e che questa persona mia cara non va a finire e basta. Che bello leggere nella prima orazione di oggi. Gesù ha spalancato le porte della vita eterna. C'è il paradiso, questa è la risurrezione, amici. Non solo che Gesù è risorto, ma che è stato il primo di noi che ci ha aperto il paradiso ancora. Cari cristiani, dobbiamo proprio chiedere al Signore: aumenta la nostra fede. La nostra fede è questa, il guardare a Gesù. Io potrei raccontarvi tanti fatti, ve ne racconto altri due solamente, di come l'uomo, nel caso erano proprio due maschi, e ti colpisce ancora di più se è un maschio che lo fa. Un uomo ormai prossimo, e c'è lì sua figlia che lo indora di sguardi: papà, papà. A un certo punto questa figlia ha come l'ispirazione di prendere un crocifisso. Una volta nelle case dei nostri vecchi c'erano quei crocifissi col piedestallo, no? Che si mettevano magari sul comò. Prende questo crocifisso, va lì da suo papà, glielo fa vedere e quest'uomo branca con due mani il crocifisso, si mette a baciarlo. Questa donna mi dice: oh, Don Ambrogio, mi ha riempito il cuore. E io stesso ho vissuto un altro fatto, ancora di un uomo, lo ricordo, un uomo grande e grosso, più di me. Mi dicono: Massimiliano è all'ospedale, ormai è in coma. Dicono che sia un coma vigile, ma non risponde più, non gli parliamo. Siamo lì in giro, ma che? Io vado a trovarlo e ricordandomi di quello che mi aveva detto il cappellano di Niguarda, l'ospedale maggiore, che l'ultimo senso che abbandona chi muore è l'udito. E dice: state attenti quando siete attorno a una salma, a una persona che sta partendo, misurate le parole o dite parole dolci, parole non si sa se sente o non si sente, però qualcuno ha provato a venire fuori e a dire: io ho sentito tutto. Beh, allora io mi avvicino all'orecchio e dico: Massimiliano, sono il tuo parroco, sono Don Ambrogio, io dico un'Ave Maria, se tu mi senti seguimi con la mente. Io comincio l'Ave Maria e quest'uomo, mantenendo chiusi gli occhi, muove le labbra senza voce, ma distintamente stava recitando con me in silenzio l'Ave Maria. I suoi parenti non stavano più nella pelle. Ci mai 2 giorni che non dà segni di vita. Questa è la fede, gli ho detto. Questa preghiera che avrà imparato in casa sua dalla sua mamma, la prima preghiera che ha imparato, è l'ultima preghiera che l'accompagna: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amici, ma questo può capitare perché Gesù non è solo morto, è risorto, è vivo, è in paradiso. Concludo dicendo che possiamo, certo con la fede, ma possiamo tenere presente tutto questo se guardiamo la messa, l'Eucaristia. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa del nostro incontro, amici. Amate la messa, non consideratela una buona azione, se c'ho tempo vado, se non c'ho tempo. Con quanta superficialità si salta la messa. Ma uno dovrebbe andarci con una gamba sola. Sento gente che dice: io non ho mai perso un giorno di lavoro, ci andavo anche se avevo un po' di lineette di febbre. Bravo, sei un ottimo lavoratore. Ma vai in chiesa, vai a ricevere il corpo di Cristo. Vi leggo per concludere una pagina meravigliosa di François Mauriac, un accademico di Francia. La Francia annovera come i suoi figli più grandi tra gli accademici di Francia e parla del viatico. Purtroppo credo che i ragazzi non sanno più cosa sia il viatico. Voglia il Signore Gesù concederci la grazia di non morire senza viatico, di entrare nel mistero della morte con il solo amico che possa con noi oltrepassare quella porta. Colui che si abbassa fino ad unire la sua carne, il suo sangue e la sua divinità a un corpo, il mio, quasi già corrotto e per 3/4 distrutto, che egli senta il nostro impercettibile singhiozzo, che egli riceva sul suo volto adorabile l'ultimo nostro respiro, e così, addormentati in Cristo, possiamo risvegliarci ai piedi di Cristo Re, vincitore del mondo. Che egli sia benedetto per l'immensa speranza di non morire da soli.